Friuli nel mondo, 192esima trasmissione dedicata agli emigrati. Vi trasmettiamo oggi, cari amici radioascoltatori, il terzo ed ultimo gruppo delle nuove canzoni friulane eseguite lo scorso luglio durante la 10ª edizione del Festival di Pradamano, svoltosi nella stupenda cornice del Parco Giacomelli. Con l'orchestra friulana diretta da Virginio Feruglio, ascoltate Senche Sorelli di Angelo Peloi, canta Adriano Degano. Se voglia vivi così, il cuore che spiede senza sognare, le mani che tiri senza chattare, e voi che c'hai senza sperare, se voglia vivi, se voglia vivi. Senza il tuo amor, senza sorelli, non pove la luce il dì. Senza di te non sarà luce per me così. Un'altra mai, in te me vite non spietarai. Se puoi dimmi, dopo di te, se puoi dammi, dopo di te, se voglio al vivi, se voglio al vivi, vieni così, senza il tuo amore, senza sorelli. Dopo ve la luce il dì, senza di te non sarà luce per me così. Sorelli, dopo ve la luce il dì, senza di te non sarà luce per me così. Un'altra mai, in te me vite, lo spieterai. Dopo di te, se puoi darmi, dopo di te, se vai al vivi, se vai al vivi, vivi così, senza il tuo amore, senza sorelli, dopo la luce il dì. Senza di te non sarà luce per me così. Con la voce di Graziella Cuttini, Non si ferma il timp di Claudio Bressan e Livio Tuni. Thank you. Ettore Craighero e Pippo Sormani, Gino Forgiarini interpreta Plui dal Cil. Sui pras d'avril io ti hai viudude, ti nude sul mio sé, ma tu mi has lasciat parla lontane, da ur di un altri be. Sol che io i torni lassù, la che ti hai conosciute, c'è se il tormento il mio cuore si metta a sperare. Pensi che lì anche tu saresti svignute, se il mio dolore fin di te al potere arrivare. Tu sei per me plui dal cil, plui de vite, ti clami, torne, torne con me. La passi e poi ade, io sei sicuro che il mio amor ti farà tornare. sei sparme. Lui dal cielo, lui de vite, ti clami, torne, torne con me. Ci dine dentro di me, za la passi e boiade. Io sei sicuro che il mio amor ti farà tornare. Ed infine Annalisa Viel canta Flores di Narans di Angelo Peloi. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.